Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Crolla la produzione industriale del 12,3%, netta frenata anche per l'auto, meno 46,6%, e la Camera vota con la fiducia il decreto anticrisi. Addirittura d'arrivo al Senato anche il decreto sicurezza con il contributo per i permessi di soggiorno. Insorge l'Acciaia, un balzello contro l'integrazione. Acido invece di cloro in una piscina comunale di Torino. 7 persone, tra cui donne incinta e disabili, sono finite in ospedale. Avrei voluto andare a Gaza, ma è impossibile, così dice il segretario dell'ONU Ban Ki-moon, che dal Cairo lancia l'appello per la pace, mentre Bin Laden in un video inneggia alla jihad contro Israele. Non sarà estradato Cesare Battisti, ex militante dei proletari armati per il comunismo, condannato in Italia per 4 omicidi. Il Brasile lo ritiene un rifugiato. La Farnesina protesta. 90 anni di storia di segreti italiani. Li compie oggi Giulio Andreotti, il divo. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizio. E buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, decreto anticrisi alla Camera e disegno di legge sicurezza al Senato. Cominciamo da qui e dall'intenso lavoro parlamentare, il giornale radio di oggi. Su tutto però le polemiche sull'uso della fiducia. Ma cominciamo come sempre dai fatti. Allora andiamo a Montecitorio, dove si attende di votare la fiducia al decreto anticrisi e dove c'è per noi Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Buongiorno, il governo proprio alla prova della fiducia qui alla Camera sul decreto legge anticrisi, una fiducia, ricordiamo, contestata dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, ma definita da Silvio Berlusconi inevitabile, tesi confermata dal leader della Lega Umberto Bossi questa mattina. In teoria la fiducia non si dovrebbe mai mettere, dice Bossi, ma nessun governo è disposto a farsi mandare all'aria da qualche emendamento, e stavolta la fiducia era inevitabile. Bossi conferma ovviamente sì al governo, il ricorso alla fiducia viene però anche contestato dai sindacati. Sentiamo cosa ha detto al microfono di Paola Anania Raffaele Bonanni della CISL. In queste ore noi stiamo premendo in Parlamento che ci possa essere qualche condizione migliore, e ci dispiace, ci preoccupa davvero, come è stato detto anche così autorevolmente dal Presidente della Camera, che il ricorso costante alla fiducia è un errore. Quindi noi insistiamo che possa essere migliorato e crediamo che questo ricorso continuo all'uso della fiducia possa essere modificato al più presto. Attacca il Partito Democratico al di là del contrasto istituzionale, dice Antonello Soro, il dato politico è la frattura all'interno della maggioranza, e dietro ai contrasti tra Fini e Berlusconi ci sarebbero in gioco gli equilibri del nuovo Partito del Popolo della Libertà tra AN e Forza Italia. Stamattina il premier Silvio Berlusconi ha incontrato il ministro dei rapporti con il Parlamento Elio Vito e il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 14, poi la fiducia a chiamata nominale, l'esito scontato prima delle 17. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, ci risentiremo come sempre nel corso della giornata. Al di là della discussione politica ci sono poi, sentivate dai nostri titoli, dati economici che spingono a riflettere sulla crisi. Crolla la produzione industriale, secondo i dati Istat a novembre l'indice ha registrato un meno 12,3%, dicevamo, rispetto a novembre 2007, ma di questo parleremo più avanti nel corso di Extra Large, perché torneremo ancora sui contenuti del decreto anticrisi. Dalle misure economiche a quelle sulla sicurezza, perché passiamo dalla Camera al Senato, è qui che oggi approda il disegno di legge sicurezza, con le polemiche anche in questo caso per una tassa, contributo sulla emissione di nuovi permessi di soggiorno. Come sta andando, Paola Cavadi? Sì, buongiorno. In effetti la seduta si è appena conclusa, la seduta del Senato sulla votazione degli oltre 200 emendamenti al DDL sicurezza. I lavori dell'Aula riprenderanno nel pomeriggio. Diciamo innanzitutto che la tassa sul permesso di soggiorno voluta dalla Lega resta, ma come avete detto sotto forma di contributo che potrà variare tra i 10 e i 400 euro. Il compromesso tra il premier Berlusconi e il ministro dell'Interno Maroni è stato trovato ieri, dopo che nei giorni scorsi le posizioni dei due erano apparse molto distanti. E sul discusso emendamento è arrivato poco fa il secco no della Conferenza Episcopale Italiana, che lo ha definito un inaccettabile passo indietro in tema di integrazione. E la Lega ieri ha incassato poi un altro importante sì del governo, e cioè l'anticipo del voto sul federalismo a prima del 3 febbraio. In cambio ha consentito a smussare, diciamo così, le sue posizioni in materia di sicurezza. Infatti oggi il Carroccio fa un passo indietro sullo stop di 2 anni ai flussi di ingresso di stranieri e anche sull'obbligo di coprirsi il volto nei luoghi pubblici. Approvato stamattina dall'Aula del Senato invece l'emendamento che reintroduce il reato di oltraggio alle forze di polizia, punito con la reclusione fino a 3 anni. Il reato, lo ricordiamo, era stato abrogato nel 99. Restano fuori dal pacchetto invece le norme sulla violenza contro le donne e lo stalking. Il governo presenta oggi in tutto circa 20 emendamenti, tra questi anche l'estensione della legge Mancino alle associazioni sospettate di terrorismo. In base a questo emendamento, in sostanza, il capo del Viminale potrà sciogliere gruppi e associazioni e confiscare beni in presenza di sentenze definitive. Come abbiamo detto, i lavori dell'Aula riprenderanno nel pomeriggio e il disegno di legge sarà votato definitivamente il 3 febbraio prossimo. E dal Senato per il momento è tutto, restituisco la linea. E grazie allora alla nostra Paola Cavadi. E intanto veniamo a Milano, dove è atteso il ministro di Grazia e Giustizia Alfano, e vediamo anche se c'è qualche reazione per quanto riguarda le norme di cui stavamo parlando, che coinvolgono anche Alfano. Raffaella Calandra, buongiorno. Buongiorno, il ministro della giustizia Angelino Alfano ha appena terminato un brevissimo e anche abbastanza concitato incontro con la stampa e con gli operatori giudiziari del Tribunale di Milano, dopo aver incontrato i vertici del palazzo e della città. Ha parlato del caso Battisti come del caso Ganci, come delle riforme sulla giustizia. Partiamo proprio da qui. Ha confermato l'intenzione di andare avanti con la digitalizzazione di tutto il sistema giudiziario, rispondendo così indirettamente anche a tutto il dibattito dei giorni scorsi circa l'esistenza di una centrale unica con tutti i registri riguardanti le notizie di reato e le perplessità espresse dalle toghe. Il ministro ha detto: noi andremo avanti con la digitalizzazione, ma assicurando anche la massima sicurezza e la massima riservatezza dei dati. Quanto al caso Ganci, ossia il boss a cui era stato attenuato il 41 bis, il ministro ha annunciato che questo pomeriggio fermerà di nuovo il 41 bis per il boss, dal momento che erano stati rinvenuti degli elementi nuovi che lo permettevano. Ancora parlato del caso Battisti, dicendosi dispiaciuto della posizione del governo brasiliano di non concedere l'estradizione appunto per l'ex esponente di brigatista rosso italiano. Infine, grazie a Raffaella Calandra di Battisti, poi noi parleremo anche più avanti nel corso del giornale. Grazie a Raffaella Calandra. La cronaca ora ci porta invece a Torino. Sì, perché 7 persone sono finite in ospedale per un intossicamento dovuto ad acido solforico gettato per sbaglio in una piscina, almeno questo è quello che risulterebbe. Allora ci colleghiamo proprio con Torino. Marco Ferrando, che succede? Sì, buongiorno da Torino. Beh, diciamo subito che le informazioni che per ora abbiamo potuto raccogliere su quanto accaduto questa mattina sono frammentarie. Quello che è certo comunque è che una decina di persone, per lo più bambini, alcuni sembra con disabilità e donne, alcune delle quali probabilmente incinta, questa mattina sono rimasti intossicati mentre stavano effettuando alcuni esercizi in piscina. Il tutto è avvenuto nel CESM di Via Cena, una struttura comunale specializzata proprio in acquaticità nella periferia ovest di Torino. In realtà gli intossicati non sembrano essere stati 7, bensì 8, e sono stati portati negli ospedali Maria Vittoria e Giovanni Bosco qui a Torino. In ogni caso si tratta di codici bianchi e verdi, dunque le loro condizioni non sono gravi. A questo punto resta da capire quale sia stata la sostanza versata in piscina e chi l'abbia versata. Si dice forse acido cloridrico, ma non è sicuro. In ogni caso sembra che la sostanza sia stata versata al posto del cloro. Ci stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco, che per ora naturalmente hanno anche chiuso il centro. Da Torino per ora è tutto, linea allo studio. Grazie Marco Ferrando. Anche oggi sono e numerosi i disagi per il maltempo in Italia. Nevica al centro in Veneto con rallentamenti del traffico, ma il peggio oggi è davvero al sud. È arrivata dall'Africa la perturbazione violentissima che ha investito le regioni del sud Italia. Da due giorni piogge continue, temporali e venti a volte di burrasca sino a 60 nodi stanno provocando danni e disagi. In Campania il fiume Sarno è straripato, a San Marzano in provincia di Salerno, ma i fiumi minacciano di esondare anche in Sicilia, dove sono stati chiusi diversi tratti stradali. Strade chiuse anche in Puglia, nella zona del Gargano, per frane causate dalla pioggia. Forti le mareggiate, soprattutto tra la Sicilia e la Calabria ionica. Ci descrive le conseguenze del maltempo in Calabria Natale Mazzei, della Protezione Civile, impegnato nel team operativo a Catanzaro. Interruzioni della viabilità, soprattutto secondaria, qualche momentanea interruzione delle linee ferroviarie, soprattutto una fascia unica, qualche evacuazione. In totale ieri sera si contavano intorno a 300 persone allontanate per precauzione dalle loro case. Delle misure preventive, quali quella per esempio della città di Crotone, dove ci si è disposta la chiusura di 4 istituti. A Napoli provincia innumerevoli le richieste di intervento per danni provocati dall'acqua. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Ugo Bonessio. Tra gli interventi più rilevanti vi posso segnalare: a Pianura c'è uno sprofondamento della sede stradale dove è sprofondata un'autovettura, per fortuna senza danni a persone. E a Castellammare abbiamo un'altra zona con uno smottamento di un terreno abbastanza rilevante, ma al momento, se le verifiche le stiamo facendo, sembra che il castello borbonico, le mura, non siano interessate da questa frana. Ma per fortuna il peggio della perturbazione sembra essere passato. Claudio Castellano, meteorologo previsore della Società Meteorologica Italiana. Questa fase acuta del maltempo si sta esaurendo, sarà ancora una giornata complicata per il sud Italia, le piogge interesseranno ancora diverse regioni, soprattutto la Sicilia, il Lazio, a tratti anche con dei forti temporali, la Puglia, però meno intense della giornata di ieri. Questa fase di tempo instabile proseguirà in parte anche nella giornata di domani, sempre però con fenomeni più attenuati, e un miglioramento dovremo iniziare ad averlo a partire da dopodomani. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Tra i tanti articoli e vignette sulla stampa che ricordano i 90 anni di Giulio Andreotti, abbiamo scelto dalla prima pagina di Libero Benny, che disegna il classico volto enigmatico del senatore a vita Andreotti. Il titolo è: La bravura di Giulio, dare il meglio del peggio. 90 anni fa, una vita lunga davvero quasi un secolo, quella di Giulio Andreotti. Data di nascita 14 gennaio 1919, custode di segreti d'Italia, oggi 90 candeline da spegnere. E sentiamo come ce lo racconta Dario Ceccarelli. La paura fa 90, ma il divo Giulio, che proprio oggi festeggia il 90° compleanno concedendosi duetti di caramelle, non fa un plissé. E poi di che cosa può aver paura un uomo sulla scena politica da più tempo della regina Elisabetta, per ben 7 volte capo del governo, sospettato di un bacio galeotto con Totò Riina, e che legge l'Osservatore Romano da quando ha 12 anni? Di nulla, ovvio. Potere o no, Giulio logora tutti. È sopravvissuto al Novecento, al fascismo, alla Prima Repubblica, al terrorismo, alla DC, al PC, alle vignette, a Buscetta, ai giudici e agli amici di partito, che come noto sono ben più pericolosi dei comunisti. Gli resiste solo Berlusconi, che quando sente parlare di Andreotti, toccandosi, telefona subito al suo famoso medico, che lo conforta dicendogli: tranquillo, è il fisico di un ragazzo. Dicono che Andreotti sia un cinico, un machiavellico, ma lui risponde: carognate non ne ho fatte. Dicono anche che il suo archivio, 3500 faldoni, sia il nostro armadio dei misteri, lo specchio dell'Italia. Dovrei guardarci, dice, facendo presagire chissà quali fuochi d'artificio. Ma poi, interpellato da infinite commissioni parlamentari, ogni volta spegne la miccia. Sulla sua lapide vorrebbe che fosse scritto: fatevi i fatti vostri. Qualcuno, infine, sogna che sui misteri d'Italia lui pronunci finalmente queste parole. Così, confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Ma questo, ricordatevelo, è successo solo al cinema. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E per la politica di oggi, o meglio di questi minuti, nell'aula di Palazzo Madama è mancato poco fa il numero legale durante l'esame del disegno di legge sicurezza. I parlamentari del centro-sinistra sono in aula ma non hanno votato la fiducia. 13, 17 minuti e 30 secondi, le notizie di oggi. A novembre la produzione industriale è scesa in Italia del 12,3%, la diminuzione più marcata, fa sapere l'Istat, dal gennaio del 91 per il settore automobilistico, un vero e proprio tracollo, meno 46,6%. L'economia dell'area euro continuerà a ristagnare fino alla metà del 2010, scrive intanto l'Ocse. E alla Camera il voto sul decreto anticrisi, tra le polemiche per la decisione di ricorrere alla fiducia, il Presidente della Repubblica Napolitano ha ricevuto questa mattina il Presidente della Camera Fini. Al Senato intanto si vota il disegno di legge sicurezza, è stato reintrodotto con un emendamento il reato di oltraggio alle forze di polizia, in discussione anche la tassa sul permesso di soggiorno che diventa un contributo variabile da 10 ai 400 euro. Sette persone, tra cui due donne incinte e tre disabili, sono finiti in ospedale questa mattina a Torino. Acido solforico è stato gettato per sbaglio al posto del cloro in una piscina comunale. Se l'accordo tra Russia e Ucraina per la ripresa delle forniture di gas non verrà messo in pratica con urgenza, la Commissione europea dirà alle società europee di adire le vie legali. È stato l'attacco questa mattina del presidente della Commissione, Josep Barroso, che ha criticato duramente Mosca e Kiev per la mancata ripresa, malgrado la firma. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, è al Cairo. Prima tappa di un tour per colloqui in cerca di una via d'uscita alla crisi israelo-palestinese. Avrei voluto andare a Gaza, ma non mi è stato possibile, ha detto. I feel very sad. Sono veramente molto rattristato per quanto sta accadendo, per coloro che sono stati uccisi, per coloro che sono rimasti feriti. E ripeto il mio appello per un cessate il fuoco immediato e duraturo. Questo mentre siti arabi hanno diffuso un messaggio di Osama Bin Laden, Al-Qaeda invita alla jihad contro Israele. Il Brasile ha concesso lo status di rifugiato politico a Cesare Battisti, ex militante dei proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo in Italia per 4 omicidi tra il 77 e il 79, la cui estradizione era stata chiesta tempo fa dall'Italia a Brasilia. Forte rammarico è stata la presa di posizione della Farnesina. 4 ville, 3 appartamenti, un bar, terreni e appezzamenti agricoli a Casal di Principe. Dopo il mancato arresto, i sequestri di beni per familiari e prestanome del boss latitante del clan dei casalesi Giuseppe Setola, valore 10 milioni di euro. Bisogna ricordare per evitare gli errori del passato e il giorno della memoria, il 29 gennaio, alla Scala di Milano andranno in scena 4 testi sulla Shoah, letti da Elio, il cantante di Elio e le Storie Tese, che azzarda un confronto sulla guerra in corso in Medio Oriente. Io faccio il tifo per le vittime, cioè per chi soffre, e penso che lo debbano fare tutte le persone intelligenti e responsabili. Cominciamo da una vignetta di Staino sull'Unità, una vignetta davvero cattivella. Berlusconi parla a Fini, rifletti Gianfranco, se per me la Camera dei Deputati fosse stata una cosa importante, pensi che l'avrei data a te? Parliamo di questo, cioè del richiamo di Fini ieri sulla questione di fiducia, che, ha detto il Presidente della Camera, limita la centralità del Parlamento. Oggi l'ex Presidente della Camera Violante ai nostri microfoni sottolinea che è in crisi tutto il nostro sistema e che anche in questo caso servono delle riforme. Sentiamo l'intervista. Il problema va un po' più in là della centralità del Parlamento. In realtà c'è una questione costituzionale e una questione politica. La questione costituzionale è che, non essendosi fatte le riforme, si stanno forzando tutti gli strumenti regolamentari per arrivare a decisioni rapide. E quindi sostanzialmente si sta creando un sistema politico-costituzionale diverso da quello scritto nella Costituzione e nelle regole del Parlamento. Decreti legge e fiducia sono i meccanismi con i quali questo governo, che è un'amplissima maggioranza, sta portando in porto il suo programma politico. Questo deve allarmarci per un motivo, perché se un governo che ha una maggioranza così salda ritiene di dover ricorrere all'uso estremamente estensivo di questi strumenti per poter realizzare il proprio programma, e la necessità delle riforme si impone in modo straordinario. Il problema è tanto la centralità del Parlamento, che il sistema politico non funziona più. Bisogna ricorrere a mezzi di emergenza per farlo funzionare. Quindi è chiaro, non è solo il Parlamento, è il sistema politico-costituzionale nel suo complesso che non sta in piedi. E si sta creando di fatto un altro sistema, quello fondato su una legislazione fatta per decreti legge e fiducia. Il presidente Pera, in un articolo pubblicato sulla Stampa a fine anno, aveva anche accusato la stessa legge elettorale, l'idea della lista bloccata, perché a suo dire ha diminuito il ruolo del Parlamento. Questo è uno degli elementi da mettere, come dire, sul tavolo per la riforma? Ma il presidente Pera accoglie un fatto molto importante, cioè che è la crisi della rappresentanza. Chi rappresenta i cittadini? Il Parlamento certamente no, perché è stato cooptato. La cosa paradossale è che l'unica figura istituzionale che non è eletta direttamente, che sarebbe il Presidente del Consiglio, ritiene di avere l'investitura diretta dei cittadini e i cittadini ritengono di averlo scelto. Di fatto si sta creando un altro sistema e lo dico senza accusare nessuno, perché questo vuol dire che il sistema ordinario non funziona. Ha fatto benissimo Fini, io sono d'accordo con le cose che ha detto Fini, no? Però il problema non è tanto la centralità del Parlamento, è riformare il sistema costituzionale per renderlo complessivamente in grado di funzionare. È un tema che può essere messo al centro del dialogo di cui anche lei è protagonista? Ma io spero di sì, perché credo che interessi a tutti, perché se domani quando c'è un'altra maggioranza, quell'altra maggioranza facesse, governasse per decreti legge e fiducia, pur essendo molto ampia, è chiaro che l'opposizione farebbe lo stesso ragionamento che sta facendo adesso il centro-sinistra. Questo dunque il dibattito sull'eccessivo o presunto tale ricorso alla fiducia nell'azione parlamentare. Questa era l'intervista, un ricorso che adesso riguarda il centrodestra, ma che in passato ha riguardato anche i governi di centrosinistra, naturalmente. Questa era l'intervista di Paolo Piacenza all'ex presidente della Camera, Luciano Violante. E l'Italia rivolge un appello al presidente del Brasile, Lula, affinché vengano messe in campo tutte le iniziative che possano promuovere nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale la lotta contro il terrorismo, una revisione della decisione giudiziaria adottata. Parliamo del caso Battisti. Il Brasile ha concesso lo status di rifugiato politico all'ex terrorista Cesare Battisti, ex militante dei proletari armati per il comunismo, in Italia condannato per 4 omicidi tra il 77 e il 79. Allora sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. Cesare Battisti è un terrorista dei proletari armati per il comunismo, ricercato dalle autorità giudiziarie del nostro paese, in esecuzione di sentenze passate in giudicato per 4 omicidi. Il gioielliere Pierluigi Torregiani e il macellaio Lino Sabbadin a Milano e a Santa Maria di Sala il 16 febbraio del 79. Il maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, Udine, 6 giugno 1978. L'agente della Digos Andrea Campagna, Milano, 19 aprile 1979. Battisti non è dunque un rifugiato politico. Non lo era negli anni 80 e 90 in Francia, quando, avvalendosi della discutibile dottrina Mitterrand, si era trasformato in uno dei più importanti giallisti europei. Non lo è neppure oggi in Brasile. Non è stato condannato, come lui sostiene, sulla base di una legislazione speciale sulla fede nelle dichiarazioni dei pentiti. Battisti era formalmente latitante, non si è mai presentato spontaneamente davanti ad un'autorità per ammettere le proprie colpe. È riuscito a farla franca soltanto grazie ai mille cavilli che regolano o non regolano le convenzioni tra stati in materia giudiziaria e allo scarso coraggio dei governi, di tutti, nessuno escluso, che non hanno saputo, potuto o voluto chiedere l'applicazione ferrea dei trattati. Dopo la fuga nei cunicoli delle fogne, per il boss della Camorra Giuseppe Setola arriva un maxi sequestro. Ville, appartamenti, un bar, terreni edificabili, appezzamenti agricoli a Casal di Principe, in provincia di Caserta, sono stati infatti sequestrati a familiari e prestanome del boss latitante dei casalesi. L'operazione è scattata questa mattina a Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa nel Casertano e a Cassino in provincia di Latina. Agenti della DIA e militari della Guardia di Finanza con l'ausilio della Polizia Penitenziaria hanno eseguito provvedimenti di sequestro di beni per un valore di oltre 10 milioni di euro riconducibili al superlatitante della Camorra, Giuseppe Setola. Si tratta di 4 ville, 3 appartamenti, di un bar, terreni e società, auto e moto riconducibili al boss dell'ala stragista del clan dei casalesi. Tutti i beni sarebbero stati acquisiti attraverso il riciclaggio di denaro sporco, provento di estorsioni e tangenti. Autore di numerosi omicidi, Giuseppe Setola è considerato anche l'organizzatore della strage degli immigrati di Castel Volturno. Lunedì scorso era riuscito a sfuggire d'un soffio all'arresto. Il boss, individuato dalle forze dell'ordine nel suo covo a Trentola Ducenta, si era infilato in una botola, scappando attraverso i cunicoli fognari. Da 48 ore è in corso una massiccia caccia all'uomo per catturare la primula rossa della Camorra. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E per il film che ha raccontato la Camorra al cinema, Gomorra, niente candidatura agli Oscar hollywoodiani come miglior film straniero. Ma quali sono le pellicole che sono riuscite invece ad entrare nella rosa finale al posto del film di Garrone? Gli italiani delusi dell'esclusione di Gomorra trovano l'appoggio di qualche critico americano e di siti come Contention.com, Awards Daily e soprattutto Hollywood Reporter. 6 pellicole sono state scelte attraverso il voto di alcune centinaia di membri dell'Academy dislocati a Los Angeles, mentre le altre 3 sono state designate da una commissione speciale. Ma cosa hanno in più o di diverso i 9 film selezionati? Pochi di loro sono stati visti in Italia. Amazing, amazing film, the class. Bisognava che io... Ma lei crede veramente che se io vado da mia madre e dico bisognò che io sia, fossi, che lei davvero capisce? Ma sì, è roba da medioevo questa. Abbiamo visto la Palma d'Oro di Cannes, La Classe. In sala c'è Il Favorito, vincitore dei Golden Globe, Waltz with Bashir. Nella cinquina dei Globi c'era anche il tedesco La Banda Bada Meinhof, anche lui già visto nei cinema italiani. Enrique! Quei difensori laggiù non mi difendono! Ferma! Candidato ai Globi anche lo svedese Everlasting Moments. Il turco Three Monkeys ha vinto il premio come miglior regia a Cannes. È passato a Berlino nella sezione secondaria Panorama l'austriaco Revanche ed è stato laureato miglior film per il premio Europa Cinemas Label. Il canadese The Necessities of Life è stato miglior film per il pubblico e gran premio della giuria a Montreal. 4 festival e 4 premi anche per il giapponese Departures. Nessun premio ancora per il messicano Arráncame la Vida, che però sul famosissimo sito Internet Movie Database ha una rating di 8,1 su 10. I 2 voti più bassi tra i 9 film scendono solo a 7,4. Il film giapponese addirittura arriva a 8,8. Gomorra, per quanto questo indice non sia scientifico, si ferma a 7,3. Non significa che sia peggiore degli altri 9, ma sicuramente che anche gli altri sono ottimi film. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:34 minuti, le notizie extra large. A novembre la produzione industriale è scesa in Italia del 12,3%, la diminuzione più marcata, fa sapere l'Istat, dal gennaio del 91. Per il settore automobilistico un vero e proprio tracollo, meno 46%. E oggi alla Camera il voto sul decreto anticrisi. Tra le polemiche per la decisione di ricorrere alla fiducia, il Presidente della Repubblica Napolitano ha ricevuto questa mattina il Presidente della Camera Fini. E al Senato si vota invece il DDL sicurezza, reintrodotto con un emendamento il reato di oltraggio alle forze di polizia. In discussione anche la tassa sul permesso di soggiorno, che diventa un contributo tra i 10 e i 400 euro. La CEI attacca, è un balzello contro l'integrazione. 7 persone, tra cui 2 donne incinte e 3 bambini disabili, sono finiti in ospedale questa mattina a Torino. Acido solforico è stato gettato per sbaglio al posto del cloro in una piscina comunale. Colpite dal maltempo tutte le regioni del sud Italia, in Calabria intense piogge e temporali. Natale Mazzei, dirigente della Protezione Civile, impegnato nel team operativo di Catanzaro. Questo ha provocato una serie di criticità puntuali e locali, interruzioni della viabilità soprattutto secondaria, qualche momentanea interruzione delle linee ferroviarie, soprattutto la fascia unica, qualche evacuazione. In totale ieri sera si contavano intorno a 300 persone allontanate per precauzione dalle loro case. Delle misure preventive, quali quella per esempio della città di Crotone, dove ci si è disposta la chiusura di 4 istituti. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, è al Cairo, prima tappa di un tour per colloqui in cerca di una via d'uscita alla crisi israelo-palestinese. Avrei voluto andare a Gaza, ma non mi è stato possibile, ha detto, mentre siti arabi hanno diffuso un messaggio di Osama Bin Laden, Al-Qaeda invita alla jihad contro Israele. Il nuovo lancio di razzi intanto dal Libano verso il nord di Israele. L'artiglieria israeliana risponde al fuoco. Il colonnello Martina, portavoce dei caschi blu dell'UNIFIL in Libano. Almeno 3 razzi sono stati sparati dal territorio libanese questa mattina e sono caduti all'interno di Israele, nell'area generica a nord di Kiryat Shemona. L'impatto dei razzi è avvenuto in aree aperte, ma non hanno causato danni né feriti, danni alle cose né feriti. Non ci sono state rivendicazioni di responsabilità immediate. Se l'accordo tra Russia e Ucraina per la ripresa delle forniture di gas non verrà messo in pratica con urgenza, la Commissione europea dirà alle società europee di andare per le vie legali. L'attacco questa mattina del Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, che ha criticato duramente Mosca e Kiev per la mancata ripresa, mancato malgrado la firma d'accordo. Decreto anticrisi dunque alla Camera, al voto e degli aspetti politici che riguardano la richiesta del voto di fiducia che ci sarà oggi, le polemiche sollevate da questa richiesta dopo la presa di posizione di Fini, il Presidente della Camera, ieri abbiamo già parlato. Adesso però vogliamo vedere quali sono i contenuti del decreto anticrisi per contrastare le misure appunto del governo per contrastare la crisi economica. Un provvedimento che vale 5 miliardi di euro con interventi in favore di imprese, autonomi e famiglie. L'IVA di cassa diventa strutturale, ritorna la rottamazione delle licenze commerciali, l'eco sconto fiscale al 55% per la riqualificazione energetica di edifici e appartamenti trova di nuovo spazio ma sarà spalmato in 5 anni. Sì allo stop poi alla commissione di massimo scoperto sui conti correnti bancari in rosso per un periodo continuativo non superiore a un mese. Il capitolo famiglie poi, per quelle che hanno diritto alla social card arriva un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale, slitta invece al 28 febbraio il termine per la domanda per il bonus famiglia. 20 milioni vanno per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La porno taxi infine viene estesa a tutti i soggetti che utilizzano trasmissioni televisive o che usano i numeri telefonici a pagamento. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Queste le misure in campo e questi i dati. L'Istat ha registrato oggi una nuova brusca contrazione dell'economia italiana. A novembre la produzione industriale è diminuita rispetto ad ottobre del 2,3%, ma nell'ultimo anno il calo ha raggiunto il 12,3%. Nettissima la frenata per la produzione di auto, meno 46%, e del resto gli stabilimenti Fiat sono praticamente fermi per la cassa integrazione. E anche le previsioni non sono buone. L'economia nell'area euro continuerà a ristagnare fino alla metà del 2010. Lo sostiene l'OCSE nella sua inchiesta economica, secondo la quale la crescita riprenderà solo nella seconda parte del 2009, però sotto il potenziale. In questa situazione, sottolinea sempre l'OCSE, la BCE ha dei margini per un ulteriore ribasso dei tassi di interesse, visto che l'inflazione continuerà a rallentare. Sentiamo allora sui dati il commento di Fabio Pammolli, direttore CERM Competitività, Regolazione e Mercati, un centro di ricerche economiche. Il dato sull'andamento dei volumi della produzione appare particolarmente preoccupante proprio perché si tratta di un dato riferito a volumi reali e il declino costante registratosi negli ultimi due anni conferisce un significato più forte di quanto non sia il riferimento al dato congiunturale. Per l'Italia pesano due ulteriori fattori. In primo luogo l'andamento e l'impennata in termini di ricorso alla cassa integrazione guadagni. Si tratterà di vedere se questo andamento della disoccupazione sarà transitorio e rientrerà o se invece si protrarrà sull'anno prossimo. Il secondo elemento riguarda un declino realizzatosi e registratosi negli ultimi cinque anni con riferimento all'andamento del PIL che pone l'Italia come maglia nera in Europa. Visto anche le misure che il governo sta mettendo in campo a livello di decreto legge anticrisi, ma anche, visto che lei faceva riferimento a questioni più strutturali, da cosa ripartire ora? La ricetta per l'Italia non è semplice per le condizioni macroeconomiche al contorno, con particolare riferimento all'entità del debito, questo fardello che è il convitato di pietra di ogni ricetta keynesiana possibile. L'incremento della produttività nella spesa pubblica, con particolare riferimento alle infrastrutture nel Mezzogiorno, è un punto fondamentale e la possibilità di intraprendere riforme strutturali sapendo che purtroppo saranno riforme strutturali a costo zero. L'Italia da questo punto di vista sarà al traino degli esiti delle politiche economiche dei giganti dell'economia internazionale. Da questo punto di vista è da guardare con preoccupazione la prospettiva di una svalutazione del dollaro che farà seguito all'immissione di liquidità e al ricorso a nuovo debito da parte dell'amministrazione statunitense entro la metà del prossimo anno, ed è da guardare con estremo interesse quello che sarà l'evoluzione della politica economica a livello europeo, soprattutto con riferimento alla posizione della Germania e all'azione di taglio possibile dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Fabio Pammolli, direttore del CERM Competitività, Regolazione e Mercati, Centro Ricerche Economiche. La crisi si può spiegare in molti modi e non riguarda naturalmente solo l'Italia. La Spagna ci prova attraverso un sito internet. Bienvenidos a esta nueva página web. E questo è il ministro spagnolo Zapatero. Ha inaugurato oggi un nuovo sito per spiegare ai cittadini spagnoli la situazione economica e le misure messe in campo per contrastarla. 82 le misure adottate in Spagna. Ed ora andiamo con Giulia Crivelli sulle pagine dei giornali stranieri. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Andiamo un po' di fretta oggi. Ci porti in Francia? Sì, in Francia la prima pagina di Le Figaro, ma anche di Les Echos, è dedicata a questo, ieri, a tutte queste disavventure dei viaggiatori parigini, soprattutto del treno. E ieri è stata chiusa per tutto il giorno una delle principali stazioni ferroviarie parigine, da dove si incrociano la metropolitana e la ferrovia, quella di Saint-Lazare. Il problema è stato uno sciopero spontaneo indetto dai sindacati, perché prima era stato aggredito un macchinista dai passeggeri inferociti per alcuni ritardi. Il problema naturalmente è l'esasperazione dei pendolari, in Francia, come sappiamo, a volte anche in Italia. Non si dovrebbe arrivare naturalmente a questi risultati estremi, però è un segnale del grande malessere. Ci sono editoriali che appunto spiegano che quella di ieri è probabilmente solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In realtà le ferrovie, ma anche la metropolitana, sono sempre prese appunto tra questo tentativo di soddisfare le richieste dei pendolari, quelle dei sindacati, naturalmente, di non far andare troppo in rossi i conti. Certo, e parliamo di quelle francesi. Sì, quelle francesi. Grazie Giulia Crivelli per oggi, grazie. Una storia invece è questa, tutta italiana, e riguarda lo stilista Valentino. Questa volta il merito va a Diva e Donna. Tra le notizie riguardanti la vita dei VIP salta all'occhio questa. La Guardia di Finanza studia il rosso di Valentino, e non per capire come ottenere il giusto punto di colore, piuttosto per scovare quei 55 milioni evasi al fisco italiano. Secondo la squadra speciale delle Fiamme Gialle, infatti, Valentino Garavani e il suo socio Giancarlo Giammetti hanno sì casa a Londra, ma non è lì che trascorrono la maggior parte delle loro giornate. Dunque, sono soggetti al regime tributario italiano, come tutti gli altri cittadini. A voler essere precisi, è stato nel 1998 che Garavani e Giammetti hanno venduto la maison ad HDP e, lasciato tutto, si sono fatti ammaliare dalle nebbie londinesi. Già in precedenza la loro posizione era stata oggetto di verifiche e giudicata poi regolare. Nella rete sono finiti anche altri. La contestazione è sempre la stessa, lo spostamento della residenza, ma la cartella esattoriale ha la bussola e riesce sempre a trovare la via. Nell'aria mancava Gloria, al fisco invece mancano oltre 3 milioni di euro che Umberto Tozzi, residente ufficialmente a Monte Carlo, non avrebbe versato. Certamente preferirebbe ridere anche Little Tony, ma anche lui, residente a San Marino, da 7 generazioni tuona il cantante, si è rigirato tra le mani la cartella che porta in grembo una richiesta da 350.000 euro. Il fisco gli contesta di passare in Italia più di 180 giorni l'anno. Non lo so, ribatte Little, non mi sono mai messo a contare per quanti giorni all'anno sto in Italia. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi extra large. A novembre la produzione industriale è scesa in Italia del 12,3%, la diminuzione più marcata, fa sapere l'Istat, dal gennaio del 91. Per il settore automobilistico un vero e proprio tracollo, meno 46%. E alle 15.30 alla Camera il voto sul decreto anticrisi, tra le polemiche per la decisione di ricorrere alla fiducia. Poco fa il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha annunciato che sarà in aula. E al Senato si vota invece il DDL sicurezza, è stato reintrodotto con un emendamento il reato di oltraggio alle forze di polizia, in discussione anche la tassa sul permesso di soggiorno, diventa un contributo tra 10 e 400 euro, la CEI attacca, e un balzello contro l'integrazione. Colpite dal maltempo tutte le regioni del sud, in Calabria intense piogge, temporali e venti di burrasca hanno provocato pesanti conseguenze. Natale Mazzei, dirigente della Protezione Civile impegnata nel team operativo di Catanzaro. Questo ha provocato una serie di criticità puntuali e locali, interruzioni della viabilità soprattutto secondaria, qualche momentanea interruzione delle linee ferroviarie, soprattutto una fascia unica, qualche evacuazione. In totale ieri sera si contavano intorno a 300 persone allontanate per precauzione dalle loro case. Delle misure preventive, quali quella per esempio della città di Crotone, dove ci si è disposta la chiusura di 4 istituti. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon è al Cairo, prima tappa di un tour per colloqui in cerca di una via d'uscita alla crisi israelo-palestinese. Avrei voluto andare a Gaza, ma non mi è stato possibile, ha detto. Mentre siti arabi hanno diffuso un messaggio di Osama Bin Laden, Al-Qaeda invita nuovamente alla jihad contro Israele. Nuovo lancio di razzi intanto dal Libano verso il nord di Israele. L'artiglieria israeliana ha risposto al fuoco, l'esercito libanese e i caschi blu hanno preso posizione per evitare altri lanci. Se l'accordo tra Russia e Ucraina per la ripresa delle forniture di gas non verrà messo in pratica con urgenza, Bruxelles dirà alle società europee di adire le vie legali. Così questa mattina il presidente della Commissione, José Manuel Barroso. Il giorno della memoria, il 29 gennaio, alla Scala di Milano andranno in scena 4 testi sulla Shoah letti da Elio, il cantante di Elio Storie Tese, che azzarda un confronto sulla guerra in corso in Medio Oriente. Tra poco lo sentiremo. Sulla guerra nella striscia di Gaza arriva dunque, come sentivamo anche dai titoli, lo spettro di Al-Qaeda. Siti internet islamici hanno mandato questa mattina un messaggio audio nel quale Osama Bin Laden chiama alla jihad proprio per Gaza. La data del messaggio è l'attuale mese islamico. È la prima volta che Al-Qaeda interviene così direttamente mentre sono in corso operazioni militari israeliane. Un segno anche questo che il conflitto rischia davvero di allargarsi e di esplodere, mentre si fa sempre più teso un altro fronte. 3 razzi, come dicevamo, sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, il secondo episodio del genere dall'inizio dell'offensiva. L'artiglieria israeliana ha risposto al fuoco, mentre i militari di UNIFIL stanno cercando, dicevamo, di tenere la situazione sotto controllo. Cristina Carpinelli ha raggiunto il colonnello italiano Martina, portavoce dell'UNIFIL in Libano. Almeno 3 razzi sono stati sparati dal territorio libanese questa mattina e sono caduti all'interno di Israele, nell'area generica a nord di Kiryat Shemona. L'impatto dei razzi è avvenuto in aree aperte, ma non ha causato danni né feriti, danni alle cose né feriti. Non ci sono state rivendicazioni di responsabilità immediate. Le forze armate israeliane hanno risposto a fuoco con 2 salve di artiglieria. Non abbiamo rapporti di danni o di feriti, nemmeno in questo caso, a causa di queste bombe. UNIFIL, in cooperazione con l'ELAF, con le forze armate libanesi, sta investigando sul terreno. Il comandante di UNIFIL, il generale Claudio Graziano, ha chiesto di esercitare il massimo controllo e sta lavorando con entrambe le parti per mantenere la cessazione delle ostilità. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, è intanto al Cairo, prima tappa di un tour per colloqui in cerca di una via d'uscita alla crisi israelo-palestinese. Così ha parlato Ban Ki-moon alla stampa. I feel very sad. Sono veramente molto rattristato, ha detto Ban Ki-moon, per quanto sta accadendo, per coloro che sono stati uccisi, per coloro che sono rimasti feriti. E ripeto il mio appello per un cessate il fuoco immediato e duraturo. Ho tentato di andare a Gaza, mi sarebbe piaciuto in questo momento, ma le circostanze attuali, ha detto Ban Ki-moon, non me lo hanno permesso. E questa mattina i giornali arabi pubblicano intanto una sua lettera aperta. A nome dell'umanità e della legge, fermate il massacro, ora e subito. Così scrive il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, in una lettera al quotidiano palestinese Al-Quds Arabi, che stamani la pubblica in prima pagina. Nel giorno in cui inizia la sua missione in Medio Oriente, il segretario ONU scrive ai lettori arabi per dire che moltiplicherà i suoi sforzi e farà di persona ogni pressione perché sia immediatamente applicata la risoluzione 1860 di cessate il fuoco. Ban anticipa quello che dirà ai suoi interlocutori in Israele come in Palestina. Il minimo sul quale accordarsi è il ritiro delle forze israeliane da Gaza e la cessazione da parte di Hamas del lancio dei missili. Adil Fatah Ali, GR 24, Il Sole 24 Ore. E siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere vogliamo andare al teatro, alla Scala di Milano. Sentiamo. Una composizione dedicata al dolore, dalla Shoah alle purghe staliniste, eseguita per la prima volta alla Scala di Milano in vista della giornata della memoria il 27 gennaio. Un pubblico pomeridiano di anziani e giovanissimi per le musiche di Luca Lombardi, i testi dell'ex presidente della Camera Luciano Violante e soprattutto la voce recitante di Elio. I morti seppelliscono. Un serissimo completo scuro e l'aria concentrata, anzi molto preoccupata. Oggi ero talmente preoccupato di fare tutto bene che non ho neanche visto chi c'era in sala. C'era tanta gente e non me l'aspettavo. Condividevo il palco con dei musicisti eccezionali. Mi sembra di aver fatto tutto giusto, è andato bene. Poi sono arrivato in tempo. Fino all'ultimo momento lo spettacolo è stato a rischio annullamento perché per colpa di un treno Elio poteva non arrivare in tempo da Firenze, dove al Teatro Verdi sta interpretando Tempi burrascosi, favola musicale di Elio Voltolini. Tra due mesi sarà al Teatro dell'Opera di Roma, dove canterà nella prima di un'altra opera di Lombardi, Il re è nudo. Ma in questi giorni, con i bombardamenti di Gaza e le scritte antisemite sui muri, questa memoria è una composizione di grandissima attualità. Dice più o meno quello che penso sull'argomento, cioè che è veramente stupido fare il tifo per l'uno o per l'altro. Io faccio il tifo per le vittime, cioè per chi soffre. E penso che lo debbano fare tutte le persone intelligenti e responsabili. I ragazzi erano lì soprattutto perché c'era Elio e lui lo sa. Quello che ho fatto prima era tutto un trucco per attirarli a queste cose qui. Eppure qualcuno non ha resistito a una risata quando sul programma di sala ha letto la dicitura Elio delle storie tese. E anche per lui era impossibile non scherzarci su. Sembrava un titolo nobile, un titolo di un nobile, come Dalle bande nere. Allora meglio Elio dalle storie tese. Se devi proprio scrivere. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordiamo, alle 15.30 comincerà la chiama dei deputati per il voto di fiducia alla Camera sul decreto legge anticrisi. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha annunciato che sarà in aula. Ora per noi il riepilogo delle principali notizie. Crolla la produzione industriale del 12,3%, netta frenata per la produzione di auto, meno 4,6%, e la Camera vota con la 46,6%, e la Camera vota con la fiducia il decreto anticrisi Berlusconi in aula. In dirittura d'arrivo al Senato anche il disegno di legge sicurezza con il contributo per i permessi di soggiorno, insorge la CEI, è un balzello contro l'integrazione. Acido invece di cloro in una piscina comunale di Torino, 7 persone tra cui donne incinta e disabili sono finite in ospedale. Avrei voluto andare a Gaza ma è impossibile, così dice il segretario dell'ONU Ban Ki-moon, che dal Cairo lancia l'appello per la pace, mentre Bin Laden in un video inneggia alla jihad contro Israele. Non sarà estradato Cesare Battisti, ex militante dei proletari armati per il comunismo, condannato in Italia per 4 omicidi. Il Brasile lo ritiene un rifugiato e la Farnesina protesta. 90 anni di storia di segreti italiani li compie oggi Giulio Andreotti, il divo. GRX Large è tutto per questa edizione. In studio Alessio Maurizio e Anna Migliorati, coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Peter Bescapè. Extra Large, @radio24.it. Se volete scriverci, l'appuntamento è come sempre per domani a partire dalle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.